She's a black belt. Black belt? She's a black belt. Black belt? Thank you. E siamo rientrati in diretta, 451 frammenti sonori, appunto puntata che è ripartita in questo caso nella seconda parte dopo il radiogiornale. Siamo ripartiti con chiaramente una formazione, una band assolutamente fondante negli anni 90, una delle formazioni più sperimentali e interessanti della scena post-rock, e abbiamo aperto appunto con i Rom, formazione appunto americana, anch'essa nata a Chicago, come gran parte delle formazioni americane degli anni 90, che appunto portano avanti il discorso molto aperto del post-rock. Rom, che hanno fatto uscire un unico album nel 1996 omonimo, da cui abbiamo tratto queste due tracce splendide, una delle formazioni appunto più sperimentali che l'abbiamo sentito anche in questi due brani, chiaramente, che ricercavano anche all'interno della musica industriale, oltre che al rock, all'elettronica, alle sperimentazioni più aperte. La musica industriale emerge chiaramente soprattutto nei ritmici, negli aspetti ritmici e nell'utilizzazione di batterie elettroniche, ma c'è anche un chiaro riferimento alla musica cosmica, alla space music, con synth, utilizzazione di effetti sonori estremamente aperti, ma anche molto, molto scuri. Una formazione sicuramente che ha segnato la scena di Chicago, ha segnato la scena della sperimentazione all'interno del post-rock, e abbiamo voluto appunto aprire la seconda parte di questa puntata di 451 frammenti sonori con questa band. Formazione che appunto apre la seconda parte di questa puntata, che per coloro che si fossero messi in ascolto solo adesso è intitolata Electro Rock, appunto percorsi sonori tra rock ed elettronica. Abbiamo aperto la prima parte con Bruce Gilbert, siamo passati poi a formazioni nuove, recenti, The Eternals, Laser Crystal e la formazione poi fondante, quella che ha dato il là alla trasmissione Transam, e poi abbiamo chiuso con Food Pyramid, un po' tranciata dall'ingresso ovviamente di Radio Popolare Network, e poi abbiamo appunto aperto con Rom, che ancora sentiamo in sottofondo. E per quanto riguarda la continuazione di questo percorso sonoro Electro Rock, dai Rom ci spostiamo sempre negli Stati Uniti, ma questa volta a Pittsburgh, andiamo a pescare una formazione nata proprio negli ultimi 3-4 anni, esattamente tra il 2008 e il 2009. Si tratta di Mai e Ure. Mai e Ure, che in realtà è costituita da uno degli elementi cardine di un altro progetto post-rock estremamente aperto degli anni zero, gli Zombie, esattamente Anthony Paterra. L'altro compagno di viaggio era Steve Moore, che comunque collabora in questo progetto, anche se è praticamente un one-man self-band. E appunto Pittsburgh è il punto di partenza. Prodotti i due primi album per l'etichetta Temporary Residence, e questa formazione è un'altra, diciamo, declinatura del concetto di electro rock. Sicuramente l'aspetto più emergente nelle sonorità di questo album che abbiamo selezionato, che è l'ultimo album uscito proprio alla fine del 2012, Solar Maximum, è sicuramente influenzato da tutta la musica cosmica, in particolare il riferimento piuttosto chiaro non soltanto della musica cosmica, ma tutta la sperimentazione legata alle sonorità a cui attingono i Mai e Ure, sono i Tangerine Dream, ma ci sono riferimenti musicali, oltre che riferimenti proprio stilistici, a tantissimi altri sperimentatori musicali della scena elettronica, in particolare anche tutto l'universo minimalista, da Steve Reich, ma anche formazioni importantissime come i Can, dunque molte cose e molti progetti sonori anche distanti dal punto di vista storico sono riferimenti per questa formazione, che in questo disco Solar Maximum elaborano un suono anni zero, seppur con forti richiami a dimensioni soniche legate appunto alla musica cosmica. Ci andiamo a sentire un brano, anche forse per rendere un po' più aperto, un po' più tra virgolette solare, l'apertura della seconda parte scura e tenebrosa dei Rom, e dunque apriamo un'altra strada all'interno di questa ricerca di 451 frammenti sonori all'interno dell'universo electro rock. Ricordo anche, dato che non l'ho fatto nella prima parte della puntata, che per coloro che fossero interessati a andare a pescare, a ascoltare i materiali delle vecchie trasmissioni, potrete sempre usufruire del nostro no blog 451frammentisonori.noblogs.org, dove troverete le ultime puntate con la playlist e la possibilità di ascoltare o scaricare la trasmissione. Intanto godiamoci, io me la godo, ma speriamo anche che voi ascoltatori apprezziate il viaggio di Maiure. L'album è Solar Maximum 2012. E siamo rientrati in diretta, abbiamo mixato chiaramente con Maieure, progetto appunto molto più cosmico, abbiamo fatto un salto in un burrone dentro un delirio improvvisativo estremamente ricco di fantasia e di inventiva di una formazione che sicuramente è tra le più interessanti degli anni zero sul territorio non soltanto rock ed elettronica, ma anche legata a tutto un universo che attraversa per certi versi echi industriali, ma anche suoni del più psichedelico e sperimentale jazz rock di antica memoria, all'improvvisazione radicale portata appunto anche a dimensioni rumoriste che agganciano anche dimensioni di Metal Drone, che poi ritroveremo con lo stesso personaggio con un altro progetto verso la fine della puntata. Parliamo di una grande formazione, gli Ethenor, che abbiamo già mandato diverse volte all'interno di 451 frammenti sonori, in particolare però quest'album non l'avevamo ancora mai inserito, ormai forse abbiamo chiuso in termini di produzione, anche se gli Ethenor producono parecchi materiali, non solo album ma anche EP, ma in questo caso abbiamo ascoltato Faking Gold and Murder, uscito per la VHF nel 2009. Formazione importante appunto nella scena degli anni zero, nella sperimentazione che appunto attraversa tutte le i pianeti, diciamo, sonori che ho elencato precedentemente, formazione composta da Stefano Malley, che è appunto chitarrista anche di Sanò, che poi ritroveremo verso la fine della puntata, e Vincent De Rogin e Daniel O'Sullivan. Formazione appunto che porta avanti un suono assolutamente unico e originale, una dimensione appunto che incontra il rock e l'elettronica e non solo, perché di riuscire a definire in due etichette credo che sia abbastanza limitativo un progetto così aperto come Ethenor. E da Ethenor, passando per Maieure, andiamo a pescare invece il prossimo progetto, un autore francese sicuramente interessante sulla scena delle sperimentazioni rock e anche jazz per certi versi, con chiaramente inserti e attitudini connesse all'elettronica nell'album che andiamo a pescare Aurora, uscito per l'etichetta Haute Corde francese, Le Passages en Clair, l'album del 2005. Un artista oltretutto anche multimediale, Michel Blanc, che nelle sue performance utilizza anche appunto delle installazioni, dei concerti, delle performance estremamente interessanti, anche se i suoi concerti sono molto rari, anche gli album, perché ne fa uscire veramente ogni 3-4 anni, autore che poi è emerso proprio intorno al 2004, il primo album che andremo proprio a sentire ora, Le Passages Clair, è l'album d'esordio. Poi ha fatto uscire altri 3 album, ma sicuramente il più interessante, ma soprattutto il più aperto, è indiscutibilmente l'album di esordio di questo autore. Dunque ci spostiamo verso un universo meno elettronico per certi versi, ma ancora dentro quell'impasto tra rock ed elettronica. Andiamoci dunque ad ascoltare Michel Blanc. tutte. Lazy eyed, lazy thigh, the sun beat down. What the hell did we ever have in common? The boat was late, the first mate, he and I got so high. The sea got rough. I remember the time we spent on your Spanish Isle. When we were young and we were freaks. cellophane bags, riches to rags, man, we got busted. You did all right in jail. You turned out to be quite a punk. Listen, man, people, they're fucking sleepwalking. They're just sleepwalking, man. You and I live on different galaxies, Mr. and Mrs., but I remember the time we spent down there on your planet when we were young and we were freaks. Left a bad sunburn on a dirty mattress for 72 hours. You didn't even have the strength left to scream out, to scream out. No more, no more, no more. Still have those handcuffs and those blood-stained black satin sheets. You guessed it right. Sooner or later, love comes this. But I remember the time we spent in Honeymoon City when we were young, when we were young. siamo rientrati in diretta, abbiamo mixato questo brano appena trascorso, che in realtà non era previsto questo mix, ma abbiamo voluto, anzi perché parlo al plurale, ma penso sempre che ci sia Max Mack insieme a me, ma in realtà chissà se avrebbe fatto come me. Comunque, al di là di questo, abbiamo, si vede che c'è una mania collettiva o non individualista. Va bene, abbiamo appunto utilizzato, e continuo, va bene così, ho utilizzato questo mix con il grande Michel Blanc, queste due tracce estremamente interessanti sull'universo tra rock e elettronica, ma in realtà il musicista Michel Blanc ha una derivazione jazz con delle coloriture rock, e poi in alcuni frangenti dei suoi album utilizza appunto anche inserti elettronici e manipolazioni soprattutto sugli effetti e e utilizzazioni di synth che distorgono, comunque creano una sorta di rumore e di flusso distorto. L'abbiamo appunto utilizzato per fare questo ponte invece con un altro chitarrista, Marc Ribot. Il progetto è Marc Ribot Ceramic Dog, l'album che abbiamo utilizzato è Party Intellectuals, album uscito nel 2008. Marc Ribot è il chitarrista, famoso per essere stato il chitarrista ed è ancora il chitarrista di John Zorn, ma ha lavorato e collaborato anche con altri grandi musicisti. Si è mosso sempre sulla scena di un jazz un po' anomalo, molto legato alle dimensioni di John Zorn, ma ha anche portato avanti delle band rock piuttosto tra virgolette canoniche. Cerca la sperimentazione, ma molte volte i risultati non sono proprio brillantissimi, tant'è che molti critici lo considerano più uno strumentista che un compositore. Devo dire che però in questo album, non dico che complessivamente è un album dove tutte le tracce escono un po' dai canoni e sperimentano nuove strade, ma in particolare la traccia almeno che abbiamo inserito, che è la quarta traccia non scritta da lui, questo bisogna riconoscerlo, ma il brano, seppur particolare, caotico, in parte abbastanza straniante, è scritto da Emilio Cubiento, e in realtà il Marc Ribot l'ha proprio realizzato insieme appunto a questa band costituita negli anni zero. Ceramic Dog è costituito, oltre che a Marc Ribot, anche Shahadad Ismaili e Chess Smith, questo trio appunto che porta avanti un discorso appunto tra rock, il jazz e sperimentazioni connesse a questo universo. Ma nel brano in questione il trattamento elettronico è molto molto forte, e anche la derivazione, lo sviluppo del brano è abbastanza particolare, con una voce comunque non scontata, non particolarmente buttata lì, e delle parti elettroniche soprattutto sull'effettistica e maggiormente però sugli inserti ritmici creano sicuramente un suono particolare che fa rientrare il brano in questione, non proprio l'album, dentro un concetto seppur abbastanza elastico, in questo caso di incrocio, connubio tra rock ed elettronica. Dunque, due chitarristi, abbiamo voluto anche omaggiare in questo caso uno strumento cardine della dimensione rock, la chitarra elettrica, Michel Blanc e Marc Ribot, seppur differenziati, perché sicuramente due autori, due musicisti hanno origini differenti, scuole differenti, influssi differenti, un europeo e un americano, ma c'è comunque una vicinanza a livello sonoro, a livello proprio anche di suono, di produzione, che comunque li accomuna e sicuramente crea una sorta di piccola isola all'interno del suono che abbiamo cercato di portare avanti stasera, che si immerge sicuramente di più dentro la matrice elettronica rispetto a questi due autori. Ma abbiamo voluto anche ampliare un po' l'universo sonoro che abbiamo voluto rappresentare, dunque abbiamo cercato anche di lavorare su questo percorso. Adesso siamo arrivati invece alla chiusura. Direte, ma come mai così presto? Perché andiamo a pescare un vero e proprio drone, che sicuramente è un altro aspetto interessante dentro il connubio rock ed elettronico. Un drone metallico, potremmo dire così, appunto, di Stefano Malley, che abbiamo già ritrovato precedentemente nel progetto Ethenor, che adesso andiamo a ripescare con il grande Greg Anderson nel duo che potremmo anche definire Power Ambient di Sanò, progetto assolutamente decisivo sulla scena del Metal Drone, un progetto estremamente sperimentale, interessante, aperto sicuramente, Sanò come altri progetti importanti degli anni zero, tutto l'universo metal dentro invece un nuovo contesto molto più sperimentale, ardito, esce dai canoni, utilizza la chitarra metal e effettistiche ed elettroniche, dimensioni elettroniche, feedback, chitarre droniche, bassi distorti, effetti continui elettronici utilizzati su strumenti elettrici, appunto, come le chitarre, e non solo il basso, ma anche altre connotazioni ritmiche. Dunque crea un suono sicuramente nuovo che ha affascinato molti musicisti, non solo della scena sperimentale e dunque di ricerca elettronica e improvvisativa, ma anche tutta una sorta di mondo legato alla musica metal, almeno quelli più aperti e più attenti ai cambiamenti, verso appunto universi anche molto distanti. Sanò ormai in termini di produzione musicale ha ormai quasi 13 anni di carriera alle spalle, ha iniziato alla fine degli anni 90 per poi andare ancora negli anni zero, nella decade degli anni 10. Sono usciti ormai circa 15 album in questi 13 anni, praticamente più di un album all'anno, album sempre molto interessanti, soprattutto ogni album segna un passaggio nuovo e una ricerca verso nuove dimensioni sonore, e dunque si mettono costantemente in discussione. Poi abbiamo avuto anche la grande possibilità di poterli vedere dal vivo a Bologna qualche anno fa, dove sicuramente hanno colpito nel segno sia gli ascoltatori che gli appassionati del genere. Adesso, dato che arriva il rospo come al solito nel finale, strano perché non ho né fumato sigarette né bevuto cose particolari, ma si vede che il rospo arriva intorno alle 2, probabilmente vuole andare a dormire anche lui, e andiamo appunto a sentirci questo album considerato uno dei migliori in assoluto di Sanò, ed è esattamente Monolithics and Dimension, uscito per la Southern Lord Records nel 2009. Ci andiamo a sentire una traccia che è un vero e proprio drone. Dunque immergiamoci dentro questo flusso sonoro, un'altra dimensione di incontro tra rock ed elettronica. Ci andiamo dunque a sentire, io ovviamente vi saluto qui, vi aspetto sicuramente con Max Macchia per la prossima domenica, a meno che non succeda qualcosa a me a questo punto, ma facciamo le corna, e vi lascio appunto a Sanò per la chiusura della puntata di stasera dedicata all'elettro rock. E chiaramente se avrete la voglia e sarete interessati ad andare a ripescare playlist o riascoltare la trasmissione, sempre sul nostro noblog 451 frammentisonori.noblogs.org. Io vi lascio dunque al flusso sonoro, al drone assolutamente geniale e ipnotico di Sanò, e ovviamente vi auguro una buona notte da Elisio Scarpa. Mm-hmm.